non è una cordata, non c'entra niente, era tipo sfregamento di qualcosa come faceva ai tempi suoi, almeno da raccontato a lui, il famoso Falcone. Ah, i peli, e io voglia. Vediamo se Gianfranco si è sciolto l'antenna. Ci sei, Gianfranco? Sì, ci sono adesso. Ho messo l'altro per qua perché prima era c'era l'altro che mi serviva per ascoltare altra roba. Sì, no, io tengo sotto controllo sia cioè parecchio spettro, capito? Basta che accenda il coso lì, quello che ci metto in particolare che può monitorare da 0 a 50 nello stesso istante, quindi se uno parla e c'ha segnale forte tipo il tuo, istantaneamente lo rileva, capito? Sono ricevitori cosiddetti di scoperta e analisi. Allora, stiamo parlando di cose interessanti, adesso qualche aneddoto tu, Gianfra, visto che tu sei grande appassionato di ascolto, qualcosa strana che ti è capitato ad ascoltare. Lui ha visto le lingerie in videochiamata, io ho sentito la radio privata con radiomicrofono, poi vabbè, i cellulari li abbiamo ascoltati un po' tutti, a te qualcosa di particolare? Beh, in tempi molto distanti ascoltavamo le chiamate che venivano fatte dal coso lì, che c'è dove c'è più su della GPC, poco a poco più su del posto carburanti, no? Allora c'erano i telefoni a 146, non so se li ho mai ascoltati. E hai sentito qualche conversazione interessante, dico particolare, non dico di roba segreta, di cose, discussioni un po' particolari? Sì, di lì era un giorno, tutti i giorni era un'avventura perché c'era un tipo che guardate le coincidenze, veniva praticamente sotto casa per aspettare la donna e siccome ha detto dove era anche, guarda, ti aspetto qua al solito posto, sono vicino, e io dico, oh, cavolo, c'ho... Ed era una questione di corna, in parole povere, capito? Detta così brevemente. A me una volta, ma tanti anni fa, mi è capitato un ascolto, non so chi cavolo erano, ma cosa stavano facendo, erano a bordo in mare, di notte, ma tardi, qualche servizio di coso, di polizia, cosa del genere, mi immagino finanza o qualcosa del genere, stavano facendo un abbordo a qualche nave, forse secondo me dei contrabbandieri, erano col gommone, stavano comunicando tra di loro, la nave appoggio col gommone, ha detto scendete il gommone, e stavano parlando, si è sentito chiaro, ecco, li abbiamo trovati, c'hanno le luci spente, tutto qua, e poi alla fine, non so come sia andata a fine, però ho sentito un abbordo in mare di una nave, io mi immagino sia qualcosa tipo, non so, polizia, forestale, pirata, qualcosa, ma parliamo tanti anni fa, era in chiaro pulito, ma per sbaglio, girando, ho sentito questa conversazione, ricordo era di notte e tardi. Sì, c'era, non dico che ascoltavo io, mi hanno seguiti da Sassari fino a Bosa, a Bosa poi questi hanno preso un gommone per fare certe cose e quelli là erano dietro da Sassari e li hanno pescati in flagrante, capito? Gli americani ci sono, S9 stanno arrivando. Ok, c'era Natalino, il grande Natalino, avanti Natalino. Natalino, esci fuori, lasciala TV. Io non ho sentito ancora l'americano parlando tranquillo, adesso c'è questo, sempre a buccio, sembra la lavandaia parlando qua, in 27, cosa sta arrivando? S9, pulito, vai Marco. Sì, come dicevo stasera, sul canale 6, sul canale 11, sono questi americani sempre che hanno tutti questa parlata uguale uno all'altro, la stessa timbrica, tipo canale 45, poi finiscono sempre una cosa, io ho detto, mi è venuto da dire istintivamente, si sente che sono uomini di cultura, Poi parlano in un modo velocissimo, anche in bandiera di amatoriale, quando fai un collegamento con un americano è una cosa, una macchinetta, perché loro sono convinti che tutti ascoltano, parlano inglese, però molte volte non riesci a capire le parole, soprattutto quando devi dare l'identificativo, lo dicono talmente veloce, all'altro devi dire dillo piano, slow, lento, piano, cioè non riesci a capire niente, va bene? E se tu una macchinetta. Sempre. parlato in due. Gianfra, ripeti. Ripeti Gianfra. Potrei dire Paganini, non ripete, come diceva il tuo. No, tra poco me ne devo andare, dai. Sono stanco, ho fatto parecchio ascolto in tutti i modi. E quindi me ne scappo via. No, stavo dicendo che gli americani si riconoscono subito perché hanno la patata in bocca e sono incollati letteralmente, no? Hanno la lingua incollata, fanno fatica, a volte neanche l'inglese li capiscono, hanno quello slang cosiddetto. Va bene, io me ne vado via, spengo tutto e oggi abbiamo ascoltato anche troppo. Anche già fatto la radio. Dai. Allora, se ti vuoi comprare una radio, la Kenwood ha fatto un nuovo apparecchio che è rivoluzionario, almeno per le bande radioamatoriali è rivoluzionario, perché lavora sia come coso Linux e come Android. Cioè, si chiama il Kenwood TS1090, ho visto il video ed è una cosa da paura. Esce con 500 watt, ha tutti i sistemi operativi possibili e immaginabili. Sei ingressi di antenne, cioè gli HF, i 50 MHz e i 144 con 500 watt, accetta tutte le schede CD, una varia di cose, c'ha tutti i sistemi operativi ed è una bestia da 500 watt, costa $18,000, stavo pensando di regalartelo se ti interessa. Ma guarda, a me ti dirò, piacciono gli apparecchi da 5 da 10 watt, però che sono professionali, quello lì secondo me la solita cazzata che hanno fatto e che te la vendono a quel prezzo, perché la gente conosce molto poco i professionali. Comunque vabbè, lasciamo perdere perché si fanno certe cagate in giro che fanno solo sorridere. Va bene, scappo via, vado alla TV. 9 più 10 questo qua sta arrivando. No, come detto lui con la patata in bocca, non se ne comprende nulla. Vai Marco. Venga, ciao Gianfranco. Grazie di essere entrato, buona serata, buon tutto e sentiamo. Sì, anch'io Gianfranco non lo sentivo da un'era qui al baracchino. Lo sentivo in V sui posti soliti. Mi ritrovo però qua in 27 da parecchio che non sentivo. Campa, buona serata, quindi buon tutto e sentiamo. Robè, io ho aperto qua, ma esiste veramente, non è una bufala. C'è un video, sì, $18,000, 1090S, con i 2 metri. Ah, cioè HF 2 metri, cioè lo specifica, vuol dire che non è anche UHF, no? No, UHF non è, c'ha le HF 030, i 50 MHz e in più c'ha i 144, i 2 metri. UHF, mi scusa, UHF penso che sia un po' abbandonato, i vari li utilizzano per fare i satelliti e cose del genere. C'è un video di un ex commander, tipo in occhiali, radioattore, credo radioattore, sì, c'è solo una foto però qua, si vede un grande coso a sinistra, display LCD, poi uno centrale, vabbè, bello grande, vabbè, sì, Gianfranco è più appassionato di quegli apparecchi particolari, non può uso ex militare o professionale, con funzioni speciali, che gli HF magari, cioè, ma i radioattori non servono, diciamo. E quindi, insomma, una bella orecchiata l'abbiamo data a tutti, dai, in tempi migliori o peggiori, dipende dal punto di vista, Robè. Allora, voi, diciamo, la maggior parte delle persone ha fatto solo la funia, diciamo, l'ascolto di funia. Il divertimento mio era il satellite. Quando io andavo a cercare i feed di trasferimento nelle stazioni Rai, Mediaset, americane, CNN, eccetera, eccetera, ABC, che io mi divertivo a cercare nei satelliti dove c'erano i transponder, i trasferimenti, per dire Roma mandava, cioè dire, non Roma, Roma ritrasmetteva, parliamo, ti posso dire, tutto il calcio minuto, per fare un esempio banale, c'era, si collegavano per dire Ascoli, ad Ascoli c'era Tonino Carino, non so se ti ricordi, quando c'era 90° minuto, da Ascoli Tonino Carino, e tu ti collegavi sulla frequenza di trasferimento di quella località regionale, poi per dire c'era Cagliari, e poi c'era Milano, c'era tutte le città che erano in quel periodo in Serie A, e ogni città c'aveva il coso. Io mi ricordo Tonino Carino, durante la partita, e lo vedevi seduto, perché il monitor, la telecamera era fissa su di lui e lo vedevi fumare parlando con la gente tutto quanto. Vuol dire che gli facevano, oh, no, guarda, adesso c'è il collegamento, subito si metteva dritto, lui si metteva in ordine e parlava, buttava la sigaretta, la metteva da parte e si metteva a parlare, ma era una cosa bellissima. Poi c'erano i trasferimenti dove davano le partite, che allora non esistevano queste che ci sono adesso, Sky, DAZN, eccetera eccetera, e davano, per dire, la partita del Cagliari, la davano in trasferimento a Roma, loro la registravano e poi la mandavano, molte volte davano una partita la sera, ci davano il secondo tempo di una partita. Io me le guardavo le partite all'epoca sui canali, un satellite molto spostato a 67 gradi, c'era un canale, un satellite di media a 62 gradi mi sembra, o a 67 gradi, adesso non mi ricordo esattamente, ed era la bellezza di cercare questi. E quando io lo dicevo alla gente, mi pigliava le mammacco, dice, ma no, ci viene a vedere la partita della Juve a casa, dice, come la partita della Juve? Io me la posso vedere, e mi guardavo le partite perché erano in chiaro, non erano occupitate niente, dovevo avere un impianto con le contro cose, diciamo, autorizzato, mi spostavo di lì. Poi hanno iniziato a spostare i parametri, per dire le frequenze, allora dovevi entrare su internet e ti dovevi cercare quello successivamente, quando sono entrati in digitali, e c'erano i parametri, il digitale è molto più complicato, era logico, era semplicissimo, mettevi la scansione e te lo trovava subito perché i parametri erano semplicissimi, c'era audio e video, le frequenze le trovava. Quando sei in digitale ci sono una marea di valori che cambiano continuamente, nel senso oggi trasmettono su quella frequenza lì, però si morrete di un modo, il coso, il PID audio, PID video, cambiavano un sacco di parametri. Allora tu entravi su internet, c'era satfootball.com, ti diceva la partita Juventus su Fiorentina, frequenza 27 non esiste, 12.150, polarizzazione verticale, si morrete, coso, l'altro parametro importante era il, vabbè non mi viene, ci sono dei parametri, tu scrivi direttamente quel parametro e ti guarda la partita. Caspita, e lì i satelliti ne sei due strisce, io per me arabo. Guarda, io avevo sentito qualche anno fa, fino a pochi anni fa, non so, dicevano che chi aveva un sintonizzatore analogico era buono per fare un altro tipo di attività, che non mi ricordo qual era, ho perso l'articolo, ho perso tutto, no? Però io avevo, fino a pochi anni fa, un sintonizzatore analogico satellitare, naturalmente, funzionante, apparentemente funzionante, che non lo potevo testare nemmeno più, accendere si accendeva e tutto, e forse era roba attinente a attività amatoriali, anche perché non si trovavano più analogici, non si trovavano più, e poteva essere utile per un qualcosa che io non ricordo, vabbè. Poi l'avevo buttato ingenuamente. Allora, il famoso Nokia Beomaster si chiamava, era un apparecchio, ne hanno riempito tutto il mondo, era uno di più coso, però con quel tipo di apparecchio potevi fare delle modifiche, perché fare dei lavori particolari su, anche trasmissione lo potevi utilizzare quello lì, era un grandissimo apparato, all'epoca era il più venduto, era un prodotto di commerciale, poi tutti ce l'hanno buttato, perché però chi ce l'ha è bello ottenerlo, molti radioamatori evoluti lo tengono, fanno delle cose particolari, ma io la bellezza mia, a parte le partite che uno dice non me ne ha fottuto del calcio, ma quando c'erano le guerre dei Balcani, ti ricordi il Casotto, eccetera eccetera, c'era la CNN, così quella del Golfo, allora noi ci autorizzati a mandare, quando c'era Saddam Hussein e cose del genere, autorizzati a ricevere e dare le informazioni al mondo, perché non c'era nessuno in quei posti lì, e davano solo la possibilità alla CNN di coso. Poi c'erano le partite del basket americano NBA, ti mettevi e te le prendevi su questi trasferimenti qua. Poi c'erano i canali Music Box, che poi lo ripetevano anche a TeleG, un periodo l'aveva dato anche lui, ma c'erano cose veramente interessanti, a parte le cose inutili che magari non te ne frega niente, programmi religiosi e cose del genere, però c'erano cose veramente interessanti. A chi piaceva il basket, vedersi l'NBA americana, adesso ti attacchi internet e lo guardi anche in canali normali, te lo vedi. Poi c'erano i canali, mi ricordo, i canali sperimentali di 2 Mac, che erano sistemi di trasmissione in alta definizione, li trasmettevano i canali finlandesi, svedesi e danesi e norvegesi, trasmettevano questi canali qua, erano alle albure dell'alta definizione, ancora non esistevano in altre parti d'Europa, loro trasmettevano in una, diciamo, quasi alta definizione, un po' meno, perché prima erano sistema a palle secca, ma avevano 635 righe, una cosa del genere, questi trasmettevano a 980 righe, perché una definizione è molto superiore, e c'è un televisore ad alta definizione, cosiddetta ad alta definizione, perché sino a un certo punto se in alta definizione vedevi delle immagini da paura, e c'erano questi canali, tanto davano anche i film un pochettino piccanti, dai, per non dire altro. Poi hanno iniziato anche a codificare TV 1000 svede, c'era una marea, e davano tutti a una qualità video da paura, era impensabile all'epoca, e colui avere, adesso ti metti a ridere con quelle definizioni, però avere un 980 righe quando il PAL era ancora 635, le righe sarebbero tutti quei pixel che ci sono in analogico, le righette, quando ti avvicinavi al televisore ti ricordi, e quelli li trasmettevano di 2 Mac, era un sistema che tra l'altro era anche, trasmetteva, non oltre che silenzioso, c'erano un terzo canale o 4 canali, ed era anche un bell'audio, tu se avevi un impianto, perché non Fiat ancora non esisteva, c'erano ancora quelli che attaccavano tipo quadrifonia, una cosa del genere, e avevi anche un bellissimo audio, e sentire un programma in stereo negli anni 90 in TV non era ancora, doveva ancora venire 10 anni dopo, 15 anni dopo. Quante cose, cavolo. Sì, PAL era tipo 625 nominali, come si dice. Poi PAL l'NTSC invece era già meno definito, sbaglio. Non ho capito, scusa? L'NTSC americano era meno definito, vero, del PAL? Sì, invece era 575, leggermente superiore, ma parliamo di cose a livello strumentale, mica ti metti vicino all'occhio. Allora, i tre sistemi fondamentali erano il PAL, quello europeo, a parte il SECAM francese, che ne aveva forse 6,25 il PAL e 6,35 il SECAM, però era il sincronismo invertito, era un sistema particolare, dopo ti dirò cosa facevamo con quello. L'NTSC era utilizzato negli Stati Uniti, paesi americani e paesi giapponesi, l'unico al mondo che lo utilizzava, però era multistandard, qua in Europa poi sono usciti multistandard quando hanno iniziato a fare i televisori le grosse multinazionali coreane e giapponesi, perché lo stesso prodotto lo vendevano anche in America, per cui dovevano fare televisori multistandard, però tu avevi normalmente televisori venduti in Europa, a parte i francesi, che erano SECAM, erano tutti PAL, e il SECAM era invertito, tutti guardavi un canale SECAM e lo vedevi tipo in negativo, non so se ti ricordi, e allora c'era una modifica, allora era bianco e nero, prendevamo un televisore, lo facevamo modificare, io sto parlando negli anni 75, 73, sino a 78, forse anche prima, dai. Parliamo da 70 al 75, dai. Si prendevano televisori e si metteva questo convertitore video, perché c'erano i sincronismi invertiti, e lo trasformava in cose, puntavi un'antenna a 50 elementi, UHF verso l'acustica, e riuscivi a ricevere, noi ce l'avevamo, non c'erano molti a Sassari, però c'aveva un'antenna altissima, un palo altissimo, e ti vedevi il canale TV France 1 e TV France 3, che allora loro non ne avevano più di noi eravamo solo primo e secondo, le private stavano iniziando, e noi ci avevamo già quel sistema lì, non so se l'avete fatto pure voi, riprendi Marco. No, per quella roba lì no, tanto quella roba che poi amministrava non tenne tutto. Sì, riconoscevo il sistema SECAM, però non ricordavo questo particolare dell'immagine invertita, tipo però mi hai ricordato un qualcosa e non so mai a chiedere, vediamo se tu te lo ricordi. Allora, nei primi, penso non primi, fine anni 80, c'era un'emittente televisiva minore, ovviamente analogica, no, all'epoca, che aveva deciso di mandare film o soft porn o hard porn con una codifica. Tu dovevi comprare sta scatolina, sta aggeggio a parte, e ti decodificava il segnale, e chi non aveva la decodifica lo vedevi come in bianco nero, scusa, non bianco nero, lo vedevi con i colori proprio invertiti, più una notevole distorsione che ti proprio distruggeva tutta l'immagine. Tu ti ricordi che emittente era, o il presentatore era un tipo con la barbetta che l'aveva lanciato questo sistema, poi era risultata una mezza truffa perché aveva interrotto il servizio e la gente aveva pagato questa scatoletta e poi non c'era fatta niente. Ti ricordi niente? Sì, se mi ricordo benissimo, tutte le indicazioni hai dato tu, è vero, infatti lavorava sul sincronismo, anche quello lì ci voleva questa scatoletta che ti distruggeva l'immagine, tu sentivi l'audio, tutti i lamenti, eccetera. Abbiamo provato in tutti i modi per cercare di codificarlo, c'era un amico, un tecnico che si riusciva un pochettino a intravedere le ombre, però a pulirlo non ci riusciva, era molto molto complicato, perché noi ci apprendevamo anche a fare queste cose, non io personalmente, però con degli amici, eravamo appassionati di tutte queste cose qua. Allora l'aveva portato qua a Sassa di Grishenko, è durato qualche periodo, c'era un abbonamento, lo facevi, poi alla fine è decaduto tutto, per cui è uscita la censura, perché in Italia all'epoca era un pochettino particolare il discorso. Poi erano usciti da satellite, c'era Jessica Rizzo TV, che li trasmetteva la notte, a mezzanotte partivano questi qua tutti codificati, e in certi momenti capitava che la codifica fosse per attirare la gente, non la mettevano. E più di una volta è capitato di accendere il televisore, e negli anni parliamo sino a, non, forse hanno fatto 98-99, e all'inizio i primi 5 minuti di film erano in chiaro, film proprio classici, film buoni, e capitava molte volte ci avevi la televisione, tu che vedevi questi film, però ormai è una cosa normalissima, attacchi internet e ti guardi tutto quello che vuoi. Però in Italia, quando c'era quel sistema, quello che lo ripeteva Grishenko, che era un network nazionale eccetera eccetera, che allora non potevi trasmettere neanche di rete, era tutto un macello, poi è uscita la legge, ma mi ha modificato tutto quanto e ti permetteva anche di trasmettere in diretta, perché prima tutti i programmi nazionali arrivavano le cassette registrate ed erano sempre in ritardo, facevano una programmazione settimanale, erano tutte registrate, parliamo all'inizio, e poi piano piano hanno permesso di trasmetterle in diretta, oppure con un leggero ritardo, una legge assurda, però per un certo periodo ha funzionato. No, io guardo di TV e di radio, so tutta la storia, grande appassionato, l'ho avuto anche una stazione radio, niente di importante, una piccola stazione, però ti posso dire tante cose, sono abbastanza informato in quell'ambito delle radio private del Sassari, del circondario, su tutte le storie, eccetera, eccetera, perché le ho conosciute tutte quante dalla storia. Non so se tu ti ricordi la prima televisione sassarese agli albori negli anni 70, che trasmetteva in VHF, ci voleva la mega antenna, Teleobiettivo Sardegna di Benito Castagna, che trasmetteva dal corso. Quella è stata la prima televisione, anche se prima di quella a livello sperimentale c'è stato Grishenko dagli anni 50-55, aveva fatto delle prove, però a livello diciamo molto limitato di esperimenti. Però chi trasmetteva i programmi in bianco e nero, la Teleobiettivo Sardegna, è stata la prima vera televisione privata di Sassari. Avanti Marco. Kappa, vediamo se vuole entrare qualcuno, avanti. Buonasera, per Radio Popolare l'ho sentita, ma non rubo. Certo, io ti dico tutte le stazioni, anche le frequenze, di tutto e di più, perché ho conosciuto le persone, ho preso apparecchiature, ho venduto apparecchiature, ho fatto scambi da tutte le radio che sono nate. L'unica radio, a parte vabbè, poi c'era il periodo di radio Giovane, quando c'era Grishenko, che era l'unica radio, veramente radio broadcasting, no? Poi sono nate tutte quante, in ogni angolo c'era una radio, però quando c'era Radio Giovane all'inizio era l'unica vera radio a livello nazionale come qualità di speaker, qualità di attrezzature, eccetera eccetera, malgrado accelerano negli studi. Poi sono arrivate tutte le altre, ce n'erano prima altre di Radio Giovane, però Radio Giovane era la prima vera radio, che si può chiamare come radio. Poi successivamente qualitativamente, come qualità di apparecchiature e cose, c'era Radio Zero, e poi sono venute tutte le altre, però erano più che altro a livello casareccio come qualità, però la vera radio. E poi c'è stato un periodo RTF, non so se ve la ricordate, Radio Telefinsar, che c'aveva anche la radio, era molti di quei tecnici e di quelli sono andati alla RAI, di speaker, qualcuno è diventato anche direttore della RAI, parliamo di RAI regionale, ed erano pagate dal presidente, erano tutti pagati, l'unica radio che proprio erano pagati, gli altri davano le borse di spese dal presidente, come si chiama, il proprietario del policlinico, adesso non mi ricordo come si chiama il nome, era Radio Telefinsar RTF, è stata una radio. Io sono andata negli studi, erano spaventosi all'epoca, c'erano i truccatori, la sala trucco, era qualitativamente micidiale, è durata pochissimo perché lui voleva fare soldi con pubblicità, però alla fine ci vogliono soldi, non puoi fare degli investimenti così alti. E poi ci sono tutte le radio che hanno fatto la storia, Radio Holiday, che c'è Radio Venere ancora, e poi decine e decine, per non dire centinaia di micro radio, dai, di nuovo atteggiare. Sì, Radio City Corporation, te la ricordo. E certo, Radio City, Radio Città, Radio Alternativa, c'erano le radio di partito, di coso, diciamo, c'è stato un po' di tutti che non potevano uscire la sera quando c'erano le guerre tra comunisti e fascisti, c'era Adis, Mico Adis, che aveva Radio Alternativa, era la radio dei fascisti, poi c'erano le altre, Radio Popolare, Radio Oasis, Radio cosa ti posso dire, Radio San, vabbè quelle sono venute molto dopo, negli anni 90, però Radio Città è stata una delle prime radio, poi c'era la radio di Coso, di, che è molto poverino, Radio Nord Sera, che era collegata al giornale Sassari Sera, di grandissima persona, grande persona che ha fatto la storia sia del giornalismo che della cosa, aveva preso migliaia di denunce perché lui era uno di quelli che non guardava in faccia a nessuno, però ci ha creato tanti nemici. Come si chiamava quello lì? Conoscevo personalmente, grande persona, la moglie è una grandissima donna, che è morta anche lei, poverina. Li ho conosciuti tutti, mi potete fare dire quello che volete, a quell'epoca delle radio ero anche adesso appassionatissimo. Beh, io di radio, come si chiama? Oia, non mi so bene il nome. Radio Venere conoscevo tanta gente, a Lorena, Tiziana, Marco Sound, Power DJ, Valerio, a lui conoscevo Postiglione. Sì, tutti gli amici, li ho conosciuti tutti, Marco, tutta la famiglia, anche fratello, da amici di infanzia, ci conosciamo da tanto tempo. Radio Venere è l'unica vera radio che non ha mai interrotto, al contrario di Radio Zero che aveva spento, poi riacceso. Radio Zero era all'avanguardia come, come si chiama, come apparecchiature, parliamo di qualità di trasmissione, non ce n'era per nessuno. Io ero un grande appassionato di Hi-Fi, era l'unica vera radio che trasmetteva assolutamente con una qualità audio da paura, da grattacielo. Cuni, Gianni Cuni è stato un tecnico della RAI, aveva apparecchiature che costavano una barca di soldi, però una qualità di audio da paura. Poi c'era qualitativamente come preparazione, studi eccetera eccetera, all'epoca Radio Giovane non c'era per nessuno, c'erano degli speaker che hanno fatto la storia della radiofonia italiana, Sassarese ed oltre, qualcuno è andato a lavorare, poi è diventato, Grishenko ha voluto fare il passo più grande, ha fatto Mondo Radio, poi lui è stata la prima radio network regionale, aveva fatto, diceva, 9 punti a microonde, era un investimento di, non so se era un miliardo e mezzo, all'epoca era una cifra spaventosa, e queste frequenze poi alla fine sono state cedute a cosa, RDS, Radio Dimensione Suolo, ne ha acquistato le frequenze, perché aveva fatto i punti strategici in tutta la Sardegna, era l'unica radio che riusciva a coprire all'epoca tutta la Sardegna, con 9 punti ripetitori, e non è uno scherzo avere 9 punti ripetitori a microonde all'epoca, adesso ti metti a ridere, però all'epoca era una cosa da fantascienza. Vai Marco. Ciao già, ben rientrato. Allora vabbè, per l'obiettivo Sardegna sì, me lo ricordo, non ricordo il contenuto magari dei programmi, però mi ricordo il monoscopio, mi ricordo anche l'antennone che c'era sul tetto, credo che fosse proprio il nostro, perché siccome mio zio le installava anche per gli altri condomini all'epoca, no? E piazzava lui l'antenna gratis, eravamo dei dei, cioè gli faceva dare i soldi dell'antenna e del cavo e poi gli faceva tutto lui. E mi ricordo questo antennone tipo pale di elicottero, perché giustamente adesso, vabbè sto esagerando, ma lavorava in VHF bassa, no? Tipo intorno ai 66 MHz, e quindi di conseguenza le antenne dovevano essere più grandi per quelle frequenze lì, mi ricordo Telefinsar RTF, così. E una cosa volevo chiamare, ma Video Giovane era emittente sarda o era emittente di altri posti? Poi mi ricordo anche Capodistria, che non ce la dove trasmettesse, se è da Istria davvero oppure no. Allora, Video Giovane è nata dalla costola di Radio Giovane, sempre da Grishenko, che è un po' quella, no? Patronata, che poi alla fine hanno ottenuto, hanno preso un gruppo di appassionati e hanno fatto diventare TeleG, però l'origine era Video Giovane, però non è durata molto, perché non era più, era improponibile vivere solo dalla pubblicità, i costi erano esorbitanti per tutte le cose, le stazioni radio, addirittura ancora di più, poi i programmi alla fine, non è che puoi mandare tutti i giorni cartoni animati e notiziari, alla fine la gente non ti guarda nessuno, l'unica che è riuscita a sopravvivere è Videolina, e sta leggermente sopravvivendo Sardegna 1, ma non ce la fa tenere, perché Videolina c'ha un nome, a livello italiano ce ne sono tra le prime 5 emittenti a livello nazionale come è stata. Sardegna 1 si era salvata un po' all'inizio perché è stata la prima emittente italiana a trasmettere via satellite, perché poi la copertura europea lì si è fatta conoscere, ma ha speso una barca di soldi, costavano mi pare 200 milioni, non ero, ancora non c'era quando è iniziato a trasmettere via satellite da Eutelsat Sardegna 1, è stata la prima televisione italiana, e non è poco, a trasmettere via satellite per diversi anni, poi ha chiuso perché le spese erano esorbitanti, per tornare a 300 milioni all'epoca solo di canone di noleggio del trasponder, una cifra. Adesso credo poi aveva chiuso per un po', poi aveva ripresa, adesso con questo digitale terrestre ormai è molto più semplice perché si va avanti da tutte le parti, ma all'epoca a trasmettere via satellite, e Sardegna 1 era la protagonista ricca di videolina, e poi è entrato Graus, ha ammazzato tutti, poi se l'ha rivenduta, adesso non so neanche chi sia il proprietario di videolina, non mi ricordo chi sia, perché Graus è stato un innovatore, se avete tempo cercatevi l'intervista che ha fatto, che hanno fatto a Graus, dura una mezz'oretta, ma quello ha fatto la storia dello stesso della radiofonia, televisione, radio e più anche di altre cose, quando aveva fatto Italia Online e cose del genere, su internet è stato l'innovatore, poi ha fatto il soldi, aveva preso l'Unione Sarda, eccetera, eccetera, grande persona, un personaggio che ha fatto la storia di tutto. Se avete modo guardatevi l'intervista e vi rendete conto di chi è questa persona. E poi radio c'era anche in Viale Dante, non so se vi ricordate, bellissima radio, l'ascoltavo spesso, Radio Alfa, c'era una DJ che solo a sentirla ti venivano i brividi, infatti, non so se ve la ricordate, chiediamo a Gianni adesso. No, questa non me la ricordo, mi ricordo Teleetere, mi ricordo, questa qua non me la ricordo, però quando ero ragazzo telefonavo alle radio per rimorchiarmi le DJ e ne avevo conosciuto diverse, dai. Quindi un po' già meglio girate dalle radio. No, io diciamo, avevo molti contatti, si andava spesso, io andavo molto spesso a Radioli, diceva mio cugino, molte volte facevo anche le cose, le registrazioni che servivano per la mia radio, ero amico di Coso, di Borghese, dai, ci andavo di lì spesso, mi voleva di lì andare a Radio Lua, ma non avevo tempo, io lavoravo. Dice vieni da noi, fai il programma, poi me l'hanno riproposto da poco, di quelle web radio che ci sono adesso, qualche anno fa, ma poi ho lasciato perdere, la voleva rifare mio cugino, che lui lavorava a Radio Ilida, che c'era Sandro Muro, non so se l'avete mai sentito nominare, e uno forse il più grande DJ che c'è in circolazione, parliamo sia radiofonico che DJ mixaggi, dai, famoso in tutto, non dico tutto il mondo, ma in tutta l'Italia, ha lavorato a Radio 105, eccetera, eccetera, e volevano rifarla e mi aveva detto dammi una mano, dai, mettiamoci un po' per fare un programma, visto che ho qualche cultura, diciamo, musicale piccolina, ce l'ho, ma fare un programma dedicato al periodo che mi piaceva negli anni 80, la disco music eccetera, poi non si è fatto niente, ho detto non ho tempo Antonio, c'ho troppe cose da fare, però adesso c'è Radio Prisma ripartita, credo che sia ripartita, sono bloccato, non so se vi ricordate, Radio Prisma in web radio, che era di cosa, di quello del partito socialista, non mi ricordo come si chiama, vabbè dai, mi avete capito comunque, che tu te la ricordi in me, quella che trasmetteva Radio Alternativa? Allora, più o meno le ricordo tutte quante, ma ce n'erano certe, le conoscevo di persona, ma erano, a parte la voce, ce n'erano certe, mamma mia, c'era questa Simona di Radio Olide, la conoscevo anche di persona, nel senso, perché c'era mio cugino che lavorava lì, mio cugino si è passato quando era DJ, perché c'aveva una bella voce lui, perché lui ha lavorato a Firenze, una radio di Firenze, e c'aveva l'accento un po' fiorentino, ma la gente, venivano le ragazze a cercarlo, perché lui dice la tua voce, mi piace la tua voce, non sai quante ragazze ci sono passate quando era lui a Coso, a Radio Uri, venivano di lì, era una cosa, lui era anche piacente fisicamente, però lui ti venivano con la voce, mi sono innamorato della tua voce, lui c'aveva, non aveva accento sardo, c'aveva questo accento continentale, però non proprio toscano, era un pochettino tipo toscano, dai, però non si sentiva le doppie dell'accento sardo, ed era molto ascoltato. E poi c'erano, mi ricordo, poi sono venute tutte quelle più recenti, le radio non stop, tipo la radio di Coso, Radio Sound, radio, quella di Arghito, come si chiamava, che era la Via Turatti, che trasmetteva la domenica mattina le canzoni sassarese, non ricordo come si chiamava, Radio ok, ho conosciuto anche le figlie, i generi, eccetera, da poco sono capitate, stavamo parlando, e poi non so se vi ricordate, quando c'era, come si chiama, quello di Radio Uli, che la notte faceva i programmi, non mi viene il nome, che ho conosciuto la moglie. moglie di lui, un personaggio lo stesso della fatta storia della radio, parlando con questa qua che c'ha un negozio di lì vicino a Grattacielo, cacchio non mi viene il nome, che faceva i programmi notturni, ma era uno spettacolo ascoltarlo, perché aveva una cultura questo qua, io lo ascoltavo spesso. Avanti Gianni. Entrava questo personaggio che si chiamava Gavinuccio il Maestro in quel programma lì. Aspetta, si chiama Borghese. L'hai mai sentito tu questo che entrava come Gavinuccio il Maestro? Ma dove questo? Nel programma che faceva di notte. Sì, dopo ho invitato a qualche collaboratore, magari c'era un argomento, dovevamo parlare, non so, di, cosa ti posso dire, di qualche argomento particolare scientifico, e magari invitava ogni tanto qualche persona competente sull'argomento, ma era molto interessante, soprattutto era un grande personaggio a livello, oltre che di cultura generale, tecnico, di argomenti tecnici, dove parlare, non so, di astronavi, di satelliti, di qualunque cosa, lui era molto molto informato. Una persona, era un piacere ascoltarlo. Ho conosciuto 3 anni fa, stavo parlando, c'è un negozio di lì, una profumeria vicino al coso, e stavo parlando, ero con una mia amica, e stiamo dentro a vedere Roma, stavamo guardando le vetrine, e poi parlando ci siamo fatti una bella chiacchieratina, è venuto un solo argomento di cosa? Di radio, e ho detto, ma lei è la moglie? Sì, era mio marito, abbiamo iniziato a raccontare, ho detto complimenti, ho detto una grande persona, e ci sono stati tanti di personaggi, ma anche lo stesso Postiglione di Radio Venere, che aveva una marea di ascoltatrici, che lui trasmetteva il 2 chiacchiere e un caffè la mattina, e poi la sera c'era il, non mi ricordo quel programma, se adesso mi viene il nome, ma era ascoltato da persone di una certa età, le donne, le telefonate, perché c'erano le dirette prima, era, io mi ricordo la sigla iniziale era di cosa, di Barry White, era in cosa, in alta fedeltà, con questa separazione serio, quando c'aveva un bel impianto l'ascoltavi, ti sentivi da un canale all'altro gli strumenti che funzionavano, bellissima, ascoltavo apposta la sigla di quel programma lì, era veramente bello, non mi ricordo come si chiamava il programma, bellissimo. Vai Marco. Io quando sentivo IMC mi si alzavano le antenne perché c'era la mia preferita. Quando ascoltavi? IMC The Village People. Ah, sì, no, ho capito. No, ma la sigla di cosa era molto tirata come stereofonia, le aveva messo una separazione molto compatta, una dinamica da paura, ed era la sigla di Love and Limited Orchestra con Barry White, una canzone bellissima, proprio bella, me l'ascolto ogni tanto, ma ascoltata in cuffia, ti rendi conto degli effetti di questa canzone, proprio bellissima, una qualità spettacolare, pur essendo in analogica. E poi c'era la domenica, mi ascoltavo Mix by Jonathan, che all'epoca Radio Giovane non c'era per nessuno quel DJ, c'era ancora le registrazioni, mamma mia, e poi c'era Radio Zero e Contro Zero Giornale, che c'era un gruppo di fuori di testa, da Lucio Cuni eccetera, facevano le pubblicità, gli scherzi, le cose, era una cosa, ma a mezzogiorno lo trasmette, c'era un amico mio che aveva tutte le registrazioni in cassetta, perché lo trasmettevano dalle 11 a mezzogiorno o dalle mezzogiorno all'una, forse a mezzogiorno all'una, tutte le domeniche mattina, era un programma di Piscio, che poi da lì è nato il programma Aspirina, non so se l'avete visto, in origine diciamo inventato, ripercorrendo le origini di quel programma Contro Zero Giornale, dove c'era Luca di Fronte, Bacchisio, non so se ve lo ricordate, che trasmetteva di lì lo stesso a Radio Zero, e era prima Radio Giova. Io Guglia, che non ricordo, certo, lo conosco anche. Si chiama? Sì, con il Bicchese, adesso fa le cose della Dinamo e cosa, come si chiama, quello che parlava, come si chiama, il responsabile dei, quando ci sono le interviste, le cose del genere, della Dinamo, del coso pubblicitario, non mi ricordo come, non mi viene il nome di come si chiama quella persona lì, perché la Dinamo c'ha, per ogni cosa devono fare c'hanno un responsabile, un addetto, e lui era l'uomo immagine della, del discorso pubblicitario, mi sembra, quando lui prende qualche contatto, le partite, le cose, lui era, faceva le dirette, lui con il Bicchese, lo stesso uno di quelli che ha fatto la storia, le avevano fatto le canzoni, ma chi so, gare, non si sa, non me lo ricordate? Sì, ma prima, poi, vedo la si sa, E poi non ci ricordiamo che l'altro giorno trovo almeno in officina Tony G, quello di Radio Giovane. L'ho sentito ma non lo conosco, questo di Radio Giovane. Comunque io quello che sto facendo adesso con le cuffie lo facevo prima ascoltando la notte in Radio 1, mi mettevo le cuffie e mi ascoltavo Radio 1. Sì, sì, no, guarda, io non per vantarmi, è difficile confrontarmi con persone che magari in campo radiofonico sono sempre stato appassionato, poi quando trovo qualcuno che ha un po' di informazioni, soprattutto quando tu magari fate uno speaker che ci iniziamo a raccontare le cose, ecco, sono cose interessanti. E sono iscritto a dei gruppi io, si chiama Sardegna Health, dove lì ci confrontiamo. L'altro giorno ho pubblicato una cosa, ma mi hanno risposto da tutte le parti, perché stavo ascoltando io sono con ricevitori professionali, a 97.8 c'era una radio che trasmette da Palma di Maiorca, si chiama Radio Isle, che non so come si pronuncia in tedesco, trasmettono i programmi di Radio Maiorca in tedesco, è arrivata direttamente da Palma di Maiorca l'altro giorno, un segnale da paura, e infatti ho detto, ma cacchio, non gira gira, sta arrivando una stazione dalla Germania, poi pensando, sentivo le pubblicità, ho detto, no, questa non è Germania, questa è Palma di Maiorca, allora ho cercato la frequenza e trasmette da Palma di Maiorca, cioè una postazione da paura, e ho mandato il video, perché non sono cose comuni ascoltare le radio, soprattutto in questo periodo, ma l'estate è più facile, dentro città con tutti i disturbi che ci sono, ascoltare un canale, una radio che arriva da Palma di Maiorca, c'è la propagazione, però arrivava in stereofonia perfetta S9, e l'ho pubblicato, dove la gente, quanto mi hanno chiesto, decine di informazioni, di cose, cosa poi hanno visto il ricevitore e mi hanno chiesto di tutto e di più. C'è la passione, vabbè. Io mi ricordo che quando mamma aveva il televisore, avevo il televisore Rex che aveva una manopola che faceva gli scarti, io li prendevo tutto, Spagna, Francia, di tutti e di più, e mi ricordo sempre Telecioco, non so se te la ricordo. Telecioco trasmetteva dalla Toscana, ma lui agli alburi delle televisioni, non so se vi ricordate, noi avevamo Cima Rai 1, Rai 2, poi negli anni 77, 78, 79 è entrata anche Rai 3, hanno iniziato a trasmettere Rai 3, le prime trasmissioni erano tutte in bianco e nero, poi dal 76 hanno iniziato a fare le prove a colori e dicevano trasmetteremo il film a colori, e tutti cavolo a colori, e non ce l'avevano tutti televisori a colori. Io mi ricordo, abbiamo avuto negli anni, fine anni 70, televisore, c'erano agenti da 78, l'aveva preso per le partite, e poi c'era Fusaro, Vittorio Fisaro, che è un grandissimo, una persona che bisogna fargli un monumento, lui ripeteva il segnale dall'isola d'Elba all'Imbarra, c'era delle mega parabole che le ho anche viste, nel senso adesso le hanno smontate, lui ripeteva il segnale e lo mandava a Sassari, a Monteore, rispetteva Tele Monte Carlo, quando allora era ancora Tele Monte Carlo che trasmetteva la Principato di Monaco, insieme erano le trasmissioni a colori, lo riuscivamo a agganciare basso basso con molto fruscio, diciamo, effetto neve, però è stato lui uno, e c'aveva tutti i punti ripetitori, e ce li ha ancora, a parte qualcuno l'ha venduto, la famiglia, in tutta la Sardegna, ai punti strategici di Mara, Sepedi, Valle Urmana, c'aveva tutti i punti lui, è stato il pioniere della sistemi radiotelevisivi italiani e sardi, diciamo, e da lì tutti sono passati da lui, e le parabole forse ce l'aveva ancora sotto nei garage, perché dovevo prendere io, c'era una parabola da 3 metri in acciaio, pesavano 100 kg quando ero appassionato, adesso mi è un po' passata, e allora era difficile cercare di raccattare qualche cosa. Fusaro è stato un pioniere di queste cose qua, ci ha fatto tantissimi soldi, però ha dato la possibilità ai sassaresi e al circondario di vedere televisioni che erano prima, poi è iniziato ad arrivare Videolina e poi tutte le altre, Super TV, Tele Quattro Muri, Daurizzano, vabbè, lasciamo quello, ce ne sono troppo da raccontare. Di nuovo a chi tocca, vai Marco. Sì, no, qua mi ci perdo per le radio, avete nominato una marea di personaggi che... Vabbè, io ero piccolo, magari più piccolo, Gianni già più grande, Roberto non saprei come età, ma credo tu sia più grande di me, quindi molte cose magari non le ricordo della mia radio. Poi purtroppo io ho iniziato con musica classica e metal, cioè da un estremo all'altro, e tu capisci capisci che sulle radio normali FM non ne mandavano roba metallare, mi dovevo arrangiare con audiocassette, dischi, quella roba lì. Poi vabbè, sono passato ad ascoltare tutto, però molte cose non me ne ricordo sta roba radio. Volevo chiedere a Gianni, perché Roberto mi pare entrato nel 2010, può essere, non se lo ricorderà. Allora, fino a 80, inizi 90, a Sassari c'era una CB per caso che faceva la speaker radiofonica, interrogativo, forse era un tipo un po' tondetta anche, come dire, non magra, diciamo, dai. Radio Antonella. No, aspetta, già, non sento bene. Radio Antonella. Magari sto sbagliando io, può essere una di nome Tiziana che modulava, che forse faceva lo speaker radiofonica. Guarda, bisognerebbe chiedere a Pomponio, perché lui tutte se le ricorda tutte, le femmine almeno della radio se le ricorda tutte. Non ce l'ho presente, Marco, momentaneamente. Ce n'era una che si chiamava Radio Antonella che faceva la speaker alla radio, però non so se stai dicendo quella di Antonella. Ed è praticamente il padre famoso a Sassari, c'è un negozio, vabbè, già ne parliamo, magari te lo scrivo. Ok, vabbè, forse che stia sbagliando io, mi sembrava di ricordare una cosa del genere. Ma poi vabbè, ma non mi avevi detto, Capodistria, da dove trasmetteva? Davvero dal confine là? O di dov'era? Sì, ma Capodistria qua lo ripeteva molto tardi, era alla Capodistria, al confine in Istria proprio, nella, come si chiama, al confine con l'Italia, tra Trieste e Coso, TVK è scritto. Quella in Alta Italia era super ascoltata, sia Radio Capodistria, che è stata la prima radio, diciamo, commerciale, però fuori dall'Italia, dove la musica era l'antagonista della RAI, infatti la RAI non ne poteva la vita, però il problema è che la legge erano solo leggi italiane, non potevi metterti contro un'altra nazione, era proprio al confine, e c'era una apparecchiatura di altissimo pregio, se ti guardi, poi hanno iniziato a trasmettere a colori, in stereofonia, sono state all'avanguardia come tecnica di trasmissione, Radio TV Copper era esattamente, c'era il monoscopio e c'erano delle immagini, hanno iniziato prima in bianco e nero, subito dopo era un italiano che l'aveva fatto, tra l'altro, anche se erano Slovenia, mi sembra, dov'è quel confine che c'è di adesso, non volete dire fesserie, però TV Coppa l'avevano mandata, però era un segnale registrato più che altro, la ripetevano qua in Sardegna, ma c'è stata pochissimo, poi alla fine c'erano tutte le altre televisioni private, poteva andare bene per dire 5-6 anni prima quando non c'era niente, ma all'epoca quando è arrivata qua a Sassari è come tra Monte Carlo, alla fine è morta subito, perché sono iniziate tutte le televisioni private e alla fine sono arrivati i network nazionali, Canale 5, Italia 1, eccetera eccetera, da lì poi sono tutte morte, infatti tra Monte Carlo poi è stata acquistata da Cairo, adesso ti chiamo DMC, è tutto cambiato, no? Non c'ha niente a che vedere col discorso dell'epoca, però quando è arrivata tra Monte Carlo iniziavi già a vedere qualche filmettino carino, perché i film solo la Rai te li dava, poi come è entrato Berlusconi ha ammazzato tutti e ha fatto quello che sta facendo sino adesso, è stata un'innovazione perché c'aveva i soldi e le possibilità, però hanno boicottato fino alla fine a Berlusconi, perché alla fine poi ti davano le cassette, ti davano i programmi, arrivava l'aereo a Cagliari con i programmi già pronti e loro li ripetevano perché non li potevano trasmettere in diretta, poi gli avevano dato la differita di qualche minuto, tutti i macchini della RAI, tutta roba politica, poi alla fine hanno liberalizzato il mercato, però hanno messo degli obblighi da fare a tutte, soprattutto alle piccole televisioni, le radio private erano obbligate di fare la testata giornalistica, e fare una testata giornalistica ci vogliono un saccaccio di soldi, poi col digitale adesso non ne parliamo cosa costa trasmettere in digitale, infatti tutte le televisioni hanno mollato col discorso nuovo, costa 70.000 euro solo di canone anno, perché tutte le piccole televisioni, Antenna 1, Canale 12 eccetera eccetera, vabbè Antenna 1 aveva già mollato, Canale 12 e Telegi hanno dovuto chiudere, perché cioè, come facciamo a spendere 70.000 euro all'anno solo di canone fisso, alla fine trasmettono web tv, non so, non li ho sinceramente mai viste, ma dice che stanno trasmettendo, io ogni tanto vedo quando vengono da noi per fare delle registrazioni di partite, di calcio eccetera eccetera, casa, dicono guarda vai sul canale 12, canale non so che cosa, e ci guardiamo il servizio della partita, eccetera eccetera. Però con l'internet ormai moriranno tutte queste cose. Nel futuro la televisione te la guarderai come me la sto guardando adesso, tutti i programmi io me li guardo, cioè le radio, mi scelgo il genere di radio, ci sono radio di tutto il mondo, a me mi piace la musica mixata della discoteca, cioè, ci sono canali solo di quello, oppure la musica anni 70, solo anni 70, e ce ne sono 50, 200, quante ne vuoi di musica che hanno, solo musica anni 70, solo musica anni 80, solo musica disco anni 80, ci sono centinaia e centinaia di canali, tu ti scegli l'argomento e ti vedi tutto quello che vuoi o ti ascolti quello che vuoi, dal telefonino, io lo faccio spesso. Avanti a chi tocca, Gianni. E anche io con la stessa tua passione, mi piace la musica anni 80, la discoteca, tanto è vero che quando le discoteche tipo il Ruscello fanno questo tipo di musica io vado a ballare, perché mi piacciono. Allora a me mi piace, non so se nessuno di voi lo conosce, DJ Osso, l'avete mai sentito nominare? Osso. Lo conoscete? Sì, l'ho sentito nominare. Allora, se avete tempo, allora lui DJ Osso ha fatto la storia anche lui, nel suo diciamo una novità, è un DJ allucinante, questo mixa da Beniamino Giglio, Claudio Villa, ti mette cose, David Guetta per dire, insieme, ti fa una varia di cose, ti mette il film di Trinità, ti mette la musica, questo qua ti mette la musica classica, e questa è la bellezza di questo, che mixa con tutti i generi musicali che non hanno niente a che vedere con niente, per dire. Come ti ho fatto il paragone della musica classica, ci mette la canzone di Claudio Villa e poi sopra ti mette la musica dei Pulix, per dire, ti fa mixaggi così, e c'è il canale, si chiama DJ Osso Radio, la lavorava per tanti anni a cose, io me l'ascoltavo la domenica dalle 11 a mezzogiorno a M2O, a trasmotta, adesso sta lavorando alla Rai, l'hanno chiamata la Rai, gli danno un programmino di trasmette 10 minuti, gli fanno fare dei ma è uno spettacolo ascoltare questo qui, perché poi ti riascolti canzoni nei tempi di nonno, che cosa è vecchissima, e lui c'ha una fantasia allucinante, è un mostro mixando, fa delle cose da paura. Io sono molto appassionato e riesco a valutare la bravura della persona, mixo anche io nel mio piccolo, però quando sento quello lì dico cavolo, cos'è questa cosa? È un mostro. E c'è un canale dedicato, si chiama DJ Osso Radio, bellissima, proprio se avete tempo c'è un programma Simple Radio si chiama, dove te lo puoi ti carichi l'applicazione e ci sono tutte le i programmi del mondo, se avete modo di ascoltarlo e vi rendete conto di dove sto parlando, ed è un mostro questo qua. Poi c'è anche dello squinto qua a Sassa. Cosa c'è a Sassa? Zeno, lo conosci Zeno? TG. Sì, lo stesso ha fatto la storia, anche se devo dire grande DJ, però ce ne sono molto ma molto meglio. Lui ha fatto la storia perché ha lavorato una vita a Bluestar, però non andava a Bluestar, grande mixaggio, niente da dire, un perfezionista nel senso, però a me piace il DJ che si mette a giocare, nel senso sovrapposizioni, togli una, mette l'altra, fa crescere cose. Lui era il massaggio perfetto, meccanicamente perfetto, per dire metti la canzone, non sbaglia una battuta e finisce lì. A me mi piace DJ Alessandro Murru, non dico la DJ Osso, Alessandro Murru, ascoltate a lui e vi sentite, quello si metteva a cantare, toglieva la musica e cantava, faceva la base musicale con la voce sua, cantando, toglieva la musica, proseguiva, aveva un intrattenitore da paura, Alessandro Murru, numero uno, quello ha lavorato da tutte le parti, le migliori radio d'Italia, ha fatto musiche a livello mondiale, se voi avete modo di ascoltarlo, adesso sta lavorando a Radio Super Sound e fa dei programmi allucinanti. Allucinante, è un mostro, c'ha una voce bellissima ed è un numero uno dei DJ, ma a livello italiano, non parliamo a livello regionale, a livello italiano è un innovatore dagli anni 80 che lui è un mostro, e quello è veramente bravo. Sandro, come si chiama? Zeno Piso, bravissimo, però si ferma lì, perché ti posso portare anche altre persone molto più brave di lui, ma non molto poco conosciute, che magari non hanno fatto il successo suo, e gli fanno 10 a 0. E lui è DJ classico, non è quello che diciamo gioca con, è un DJ classico, però è perfetto, lineare. interpreto bene, lui fa il mixaggio perfetto, una macchina, ti fa le battute, ti conta le battute, tac, ti sovrappone la canzone, tung e finisce, non fa niente di più. Mari, se ci mette, lo potrà anche fare, ha sempre fatto quello lì, però io ti faccio vedere dei DJ, amici, gente che fa mixaggi, che facevano il secondo DJ in discoteche molto ma molto famose, perché facevano l'inizio della serata, quando era cotto il DJ famosissimo, non facciamo i nomi, e li faceva lui, quello era Guto, non riusciva a mixare, si metteva lui, non è conosciuto, però se tu senti questo mixare, questo è venuto da me, gli ho fatto fare qualche serata quando facevo delle feste, ti posso dire, non posso dire il nome, però molti lo conoscono perché c'è un'attività inerente alla roba, alla vendita di prodotti hi-fi eccetera eccetera, se sentite quello mixare vi mettete le mani in testa, e non è conosciuto come può essere conosciuto Veno o altri DJ, questo è bravo e anche di più di questo. E a volte ci sono anche cantanti così, ci sono cantanti bravi che sono poco conosciuti e si mangiano cantanti che sono conosciuti e diciamo che ci sono. Io purtroppo devo staccare, devo preparare la cena, dai. E volevo chiedere a Roberto se volessi trovare dei termini da cercare su internet per ricordare com'era andata quella vicenda di quell'emittente che portava il segnale in analogico, se ti ricordi il nome dell'emittente o il nome del tipo barbuto, che mi pare avesse anche degli occhiali, se ricordi qualcosa, qualche termine da cercare, che mi volevo rileggere la vicenda dopo tanti anni. A quella che trasmetteva i film pornografici. Eia. Adesso la memoria, però dopo ci penso, mi faccio venire a qualcosa, la prossima volta che ci sentiamo te lo dico, perché non me lo ricordo, sinceramente c'è un vuoto di memoria, però ho capito benissimo di cosa stava, lo trasmetteva allora all'epoca video giovane, quando era ancora di Grishenko, l'ha tenuta per un periodo, però non è andata a buon fine, perché doveva fare un certo numero di abbonamenti, ma ne avrà fatto 200-300, se ne ha fatti pure, perché poi l'avrà anche bloccato per questioni di censura, c'era ancora molto efficiente la censura in Italia, per cui hanno bloccato tutto, avevano fatto una legge ad hoc, l'avevano denunciata questa emittente nazionale che trasmette, facciata ritrasmettere le immagini, avevano bloccato tutto eccetera eccetera. Ve lo ricordate poi lo stesso famosissimo Ruscello Ginger? Sì. E questo che dico io gli faceva l'ingresso della serata e molte volte quando non stava tanto bene si metteva lui a mix. E io a Ruscello sono andato parecchie volte, anche d'estate quando aprivano il tettuccio sotto. Ma Ginger era uno di quelli piacevoli perché lui, come si chiama, si divertiva, faceva sovrapposizioni, toglieva, metteva, faceva, non faceva il classico mixaggio, è stato uno che all'epoca si è dato molto da fare, piace, poi le ripetevano, c'era una radio, non mi ricordo che radio era, radio Onda Stereo, quella di Alghero, ripeteva le serate che faceva lui ed era interessante, però molte volte quando non era al 100% vedevi delle gaffe, faceva degli errori, però quando era al 100% era molto bravo. Poi c'era, non so se vi ricordate, Gabriele Pinna, aveva iniziato lui al Pebai, era molto bravo come DJ, tipo Zeno, però era un pochettino più fantasioso. E a voglia, anche al Pebai andava, a Sant'Orso, erano a casa, il Pebai non facevano entrare tutti, era una casa privata. No, io ci sono andato tante volte, c'era Ignazio Tumura di lì, non so se l'avete conosciuto, c'è stato per un po' di tempo. E io andavo a ballare lì, andavo con delle amiche, andavo a ballare lì. Era in mezzo alla campagna. Sì, sì, lo conosco benissimo. Sei presente? In quell'epoca lì c'avevo anche una piccola saletta di amici che venivano a tutto. Io trovo gente adesso che mi ritrova, gente importante anche come posizione. Ma tu sei quello che ci aveva detto sì, te ne ricordo. Ma sai quante centinaia e centinaia di persone venivano? No, neanche non si può neanche raccontare quanti fidanzamenti, quanti matrimoni si sono fatti a seguito di quella lì. Noi avevamo, per poi rimaneva aperta, alla fine venivano le greffette sempre e tutti i giorni, alla fine poi abbiamo un po' esagerato, perché stava allargando un po' troppo la cosa, ne venivano da tutte le parti, alla fine ci avevamo anche buttato fuori, era una cosa allucinante, però alla fine abbiamo detto diamoci una regolata, se no qua si sporca troppo la... Non ce n'era, a parte quelle, diciamo, tipo il Pebai, che erano cose a pagamento, diciamo, non ce n'era una di discoteca, parliamo neanche, avevamo la saletta, perché noi eravamo sponsorizzati da Paolotto, le attrezzature ci dava tutto lui, viva, cosa abbiamo fatto in quel posto e quanta gente è passata, quanta bella gente, anche cattiva gente, perché poi c'erano anche certi personaggi, Gacuna e Mufu, Gacuna e Galera, ne sono passati di tutti e di più. Però noi avevamo la possibilità, al contrario degli altri, c'era Paolotto, che all'epoca era il numero uno a Sassari, tutte le attrezzature che ci ha dato, c'ho ancora qualcosa, abbiamo sfondato decine di casse, di amplificatori, di tutto di più, impianti luci non ce li aveva nessuno, c'avevamo la palla, luci sequenziali, lo strobo, le bolle di sapone, ci avevamo tutto. Adesso è una cosa a livello casareccio, nessuna saletta da ballo qua a Sassari si poteva confrontare, a parte quando c'era il Febai, e poi sono arrivate tutte le altre, vabbè, ma quelle erano cose professionali. E Gianni, a te. Dove ce l'avevi tu questa saletta? Perché io il giro delle salette ve l'ho fatto tutto. Ce n'era una in costruttività che è stata fatta a vetrate, enorme, enorme. C'era la bricia che faceva buttare fuori l'udasso, non ti dico altro. Ma dove, al centro storico? Ehi, a dove abita Natalino, ce l'hai presente? Lì, una di quelle traverse. Ma quelli erano già circoli, erano balene, io parlavo proprio di discoteca anni 80, noi abbiamo iniziato dal 76-77 un gruppetto di amici e poi ce ne siamo andati avanti sino all'86, parliamo gli albori dell'album Disco Music, quelli altri erano più balene, chiamiamole, dove ma c'erano altri ambientini molte volte perché c'erano alla Teroce, c'erano a Sorso, noi eravamo, parliamo di cose caserecce, di cose semplici, qualcuno c'aveva il garage grande, la villa in campagna, le facevano lì, confrontandoci con quelli, no, per vantare. Non ce n'era, non veniva nessuno, ti ripeto, perché noi avevamo le attrezzature, gli altri venivano con quelle luci cagate, due lampadine cagate, uno stereo di Raja Dizet dalla selezione, non c'era ancora la cosa di avere impianti grossi, noi invece ci avevamo già qualcosa, penso una cosa a livello non commerciale, parliamo di uso domestico completo, ma avevamo delle apparecchiature, se ci pensa adesso, cose costosissime che abbiamo bruciato proprio per imbecillità, di casse che per dire tenevano 50 watt e ne eravi 200, di amplificatori li mettevi sotto sforzo con cavi sottili, cose, mamma mia, ne è rimasta solo una di quelle casse, quelle grosse che avevamo, quella è l'unica che non abbiamo rotto, ma abbiamo rotto delle casse di valore, che all'epoca costavano, lo ricordo ancora,